Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Beni di consumo e classifiche, lotta allo spreco, design e sostenibilità. Questi temi della puntata di oggi di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Una puntata fuori dagli schemi. Non ci saranno gli appuntamenti fissi di ogni settimana. Per ognuno di questi temi abbiamo scelto una notizia, una realtà, un interlocutore. Sapete quali settori e quali marche dominano la classifica dei beni di consumo nel mondo? È il nostro punto di partenza. Sono l'elettronica e l'alimentare a contendersi il primato nella classifica globale dei big dei beni di consumo. Samsung, Apple e Nestlé, secondo il rapporto annuale Deloitte, occupano il podio mondiale per fatturato, rispettivamente da 178, 156,5 e 88,3 miliardi di dollari. Per le prime due si tratta di una conferma. Il colosso svizzero dell'alimentare, invece, scalza dal podio Panasonic. In Italia a farla da padrone è l'alimentare, con Ferrero prima tra i big all'84esimo posto. Avanzano anche Luxottica, 92esima, e Pirelli, 101esima. Solo 152esima Barilla, seguono a distanza Indesit, 204esima, e Perfetti, 235esima. È l'elettronica dunque a dominare il mondo dei beni di consumo, del resto basta guardarsi intorno. Dario Righetti di Deloitte. Sono cresciuti tutti i principali operatori del settore, tra l'altro con crescite notevoli, la Samsung, Apple con crescite del 20%, Samsung, Apple del 44%, poi Nestlé, Panasonic. L'elettronica è il settore, diciamo, dominante, con Samsung, Apple, Panasonic, e subito dopo l'alimentare con Nestlé, e direi PepsiCo, Coca-Cola, quindi food and beverage. Poi ti guardi allo specchio e ti dai del deficiente, perché lo sai che della vita non si butta via niente. Cambiamo argomento. Lo sapete che lo spreco di cibo sfiora nel mondo 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate all'anno? Avanzi e prodotti alimentari scaduti che finiscono nella spazzatura compongono una montagna di cibo, pensate, più alta dell'Everest. Solo negli Stati Uniti il 40% del cibo prodotto non viene mangiato. Secondo l'ONU, dati resi noti proprio qualche giorno fa in occasione della Giornata della Terra, gli alimenti scartati sarebbero più che sufficienti a sfamare gli 870 milioni di persone povere e denutrite, senza pensare al danno ambientale curato dalla produzione di cibo non utilizzato, 3 miliardi e 300 milioni di gas nocivi che vanno ad inquinare l'atmosfera terrestre. Se il cibo gettato fosse una nazione, sarebbe il terzo maggior produttore di gas dannosi sulla Terra, dopo la Cina e gli Stati Uniti. Per fermare lo spreco si sta facendo molto. La consapevolezza di tutti noi consumatori sta aumentando. Ecco perché ci piace l'iniziativa Refettorio Ambrosiano, una mensa per i poveri durante Expo 2015, con piatti cucinati da chef stellati, con il cibo recuperato ogni giorno nei padiglioni dell'Expo. E i tavoli saranno disegnati dai più importanti designer italiani. Fabio Novembre, Michele De Lucchi, Mario Bellini, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, solo per citarne alcuni. Il progetto vede coinvolta anche la Caritas Ambrosiana, che continuerà a gestire la mensa anche dopo l'Expo. L'idea è del grande chef Massimo Bottura e del curatore del Padiglione Zero di Expo 2015, Davide Rampello. Sentiamo quest'ultimo al microfono di Adriana Fracchi. Massimo Bottura un giorno ci siamo incontrati e mi ha detto: ho in mente un'idea, chiamiamo i più grandi cuochi del mondo, italiani e non italiani, e li facciamo venire uno al giorno e cucinano con quelli che sono ciò che avanza del giorno dell'Expo. Ho trovato questa idea straordinaria, perché è una denuncia violenta contro lo spreco, e allora mi sono subito detto: guarda, ci penso, guarda, mi piace moltissimo, la facciamo. Sono andato alla Caritas, ho raccontato questo,

di non fare delle vite grame, garantendo di costruire dei progetti di vita, di usare le nuove tecnologie e soprattutto di avere meno burocrazia, perché la burocrazia sta uccidendo i nostri coltivatori. A sostegno dell'Africa lei ha invocato la fine della politica assistenzialista. A sostegno dell'Africa bisogna invocare due cose. Basta con i contributi alla grande produzione agricola, industriale, massiva e monoculturale, contributi che l'Unione Europea ha dato a manetta. Questi prendevano i soldi dell'Unione Europea, poi andavano a fare dumping in Africa, i contadini dell'Africa morivano. Quindi basta con questa cosa qui. Spostare i contributi invece ai piccoli coltivatori, a quelli che nelle nostre montagne tengono in piedi ecosistemi agricoli, ecosistemi culturali e produttivi. E terzo elemento, smetterla di dire che noi non vogliamo che vengano qui gli africani perché li aiutiamo là. Il dato di fatto è che là nessuno li aiuta, anzi, tutto il sistema e la civiltà nostra in Africa è solo per rubare. Cito tra tutti le grandi imprese petrolifiche che nel delta del Niger, anche quelle italiane, stanno distruggendo ecosistemi e migliaia di contadini alla fame. Quindi è ora di cambiare nei comportamenti, non a chiacchiere. Inclini il bicchiere ed esamini il vino in controluce. Osservi il colore e la limpidezza. Ora infilaci il naso. C'è della fragola. E ha una vibrazione come di formaggio olandese alle noci. Quando beviamo? Ora. Questa è la radice della tua vita. È la radice della tua famiglia. Piantala. Crescerà. No, io amo fare il vino perché questo nettare sublime è semplicemente incapace di mentire. Vendemmiato presto o tardi, non importa. Il vino ti bisbiglierà in bocca sempre con completa e imperturbabile onestà ogni volta che ne berrai un sorso. Delizioso. Al vino e in particolare alle piccole produzioni artigianali abbiamo dedicato un'intera puntata poco tempo fa. Da allora sono molte le segnalazioni che ci arrivano, ecco perché torniamo sul tema parlando di una startup, LorenzoVinci.it, piattaforma per la vendita di prodotti enogastronomici di eccellenza provenienti da produzioni di nicchia, di piccole aziende assenti dai circuiti commerciali tradizionali. Valfredo della Gherardesca è uno dei 7 giovanissimi fondatori. Abbiamo voluto combinare un format che è quello della vendita privata, che nasce tradizionalmente nel mondo dell'abbigliamento, con il settore alimentare e vinicolo. Si tratta di un club dove ogni settimana viene presentato un prodotto vinicolo e uno alimentare di aziende di eccellenza italiane, e la caratteristica di questo genere di e-commerce è che invece di mettere uno scaffale con tanti prodotti e lasciarli lì, si valorizza un po', secondo la filosofia dello slow food, il singolo prodotto, la singola azienda, raccontando la storia delle persone che rendono possibile appunto il raggiungimento, l'ottenimento della qualità del prodotto italiano. Quindi sono aziende che producono collezioni di nicchia, collezioni private, molto limitate, insomma, anche come numeri. Esatto, il bello di poter proporre una vendita come la nostra è che non facendo magazzino, non stoccando prodotti in maniera permanente, abbiamo la possibilità di selezionare le piccole e medie imprese italiane. Il nostro paese è unico al mondo per la qualità e l'eccellenza locale. Esistono molte realtà, che può essere il piccolo produttore di torroni, il produttore dell'olio tartufato, che magari garantiscono una qualità unica ma non hanno la forza produttiva per uscire neanche dalla propria regione spesso. Non parliamo poi di esportare. Essere e avere. Gli oggetti devono fare compagnia. L'unica costante della realtà è la mutazione. Parole queste di due grandi maestri del design, Achille Castiglioni e Bruno Munari, parole profondamente attuali e di grande ispirazione anche per le riflessioni attuali del mondo del design, come dimostrano queste due conversazioni sul settore che abbiamo fatto in occasione del Salone del Mobile di Milano. La prima è con Giulio Ceppi, architetto e designer. Con lui siamo partite dal concetto di novità nel design. La novità non è la stranezza o la stravaganza o l'invenzione bizzarra, che poi onestamente ha le gambe corte e dura poco nel tempo, ma invece è una novità che a volte ha anche le radici nel passato, perché se basta andare a vedere la mostra sulle icone del design in Triennale, il design sta un po' facendo quello che l'automobile ha già fatto da una decina d'anni, andare a ripescare alcuni masterpiece, alcune icone, alcuni riferimenti proprio per dimostrare la propria superiorità dal punto di vista dell'Italia storico, culturale nel tempo, no? Però vuol dire anche, ecco, essere appunto attenti a un'idea di novità che passa non sempre solo attraverso, io a volte lo definisco il feticismo eccessivo da prodotto, ma passa attraverso un'idea di novità che tiene conto della distribuzione, che tiene conto della comunicazione, che tiene conto del punto vendita, che tiene conto di tanti aspetti che fanno capire che il Made in Italy oggi si basa sul fatto che non si vendono oggetti, ma si vende uno stile di vita, si vendono dei sistemi, si vendono soluzioni, si dialoga con culture lontane e diverse in cui non si può pensare di piazzare un prodotto universale, ma bisogna capire le differenze, imparare a dialogarci e valorizzare le diversità, anche perché in Italia siamo capaci di farlo, insomma sta nella nostra storia fare questo. E sta anche in questo, forse colgo la sua stimolazione, la democratizzazione del design, quindi non solo un discorso sul prezzo, sulla comunicazione, ma anche proprio sul dialogo, sul ponte tra diverse culture e anche tra modalità d'uso dei prodotti. Assolutamente sì, guarda, non si può, ecco, sempre solo parlare di lusso, di eccellenze, che sono aspetti importantissimi e che nessuno vuole negare, ci mancherebbe, però ecco, non dimentichiamo, come diceva lei, che il design ha una sua storia di democratizzazione e di estensività, per cui alla fine da un lato alcune soluzioni saranno per pochi e possono rappresentare, ecco, degli esercizi di grande raffinatezza e di ricerca e di innovazione, però poi c'è anche un aspetto di quotidianità, di accessibilità, il buono e il giusto pulito, come dicono i miei amici di Slow Food, a cui aggiungerei anche il bello, perché al buono deve corrispondere il design, diciamo anche il bello, però le cose, ecco, fatte con i criteri della sostenibilità, con i criteri dell'eticità, con i criteri della parità, dell'accessibilità, che sono anche questi componenti molto importanti della nostra cultura, perché penso che nel mondo siamo riconosciuti, ecco, come una cultura che ha sempre dialogato con altre realtà e che non ha mai avuto atteggiamenti imperialisti o egemonici, e questa ricchezza, questa eterogeneità non la dobbiamo perdere, anzi dobbiamo moltiplicarla con intelligenza. Quest'anima del design inclusivo, accessibile, quindi in quale misura passa dai concetti della sostenibilità? In una misura importantissima, perché io ho coniato una tremenda espressione che uso, che è quella della sensorialità sostenibile, cioè che io ritengo che un buon prodotto oggi deve avere questi requisiti di accessibilità, come diceva lei, e di godibilità, per cui l'ecologia non vuol dire costare di più o fare le cose più care, o non vuol dire essere per pochi, vuol dire fare dei prodotti ricchi dal punto di vista dell'esperienza, quindi un prodotto ecologico non è un prodotto più brutto o un prodotto che costa di più ma sembra povero, come è stato un po' in una fase negli anni 90 in cui c'era questa estetica, e scherzando dico a volte un po' tedesca, un po' punitiva, in cui è riciclato perché è un po' più brutto e allora è ecologico, ma invece, come abbiamo fatto ad esempio nell'esercizio con Autogrill a Villoresi Est, il concetto è un'accessibilità per tutti, perché comunque un luogo di sosta autostradale è un luogo altamente democratico e deve essere accessibile a tutti, però con l'idea anche del bello, di un servizio migliorato, di miglior qualità, cioè dobbiamo lavorare proprio su questo incrocio tra il sensoriale e il sostenibile, che devono diventare quasi dei sinonimi, non devono essere degli opposti, ma due, diciamo, opposti che si integrano e che dialogano tra loro. Tra i suoi progetti l'ha appena citato il rifacimento dell'area di servizio Villoresi Est sull'autostrada Milano-Laghi, l'area di servizio autostradale più grande d'Italia, un vero e proprio fiore all'occhiello di Autogrill per quanto riguarda l'innovazione sostenibile, una struttura molto particolare, quasi un organismo vivente, è stato detto, insomma, per questa sua capacità di adattarsi al clima e alle stagioni. Ecco, in riferimento a questo progetto le voglio chiedere quanto dal prodotto, dalla sostenibilità di prodotto, il discorso si sta allargando in modo integrato ai servizi per la mobilità, alla mobilità, ai mezzi per la mobilità. È una cultura che si sta molto diffondendo. Assolutamente sì, anche perché giustamente, come sottolineava lei, non è che la sostenibilità può vivere di compartimenti stagni e non si può, se no si diventa incoerenti, avere un'architettura sostenibile ma poi non avere dei prodotti che vengono venduti all'interno che siano altrettanto sostenibili, si cadrebbe subito appunto in contraddizione, perché poi bisogna convincere i consumatori della bontà di tutto questo, bisogna raccontare, bisogna coinvolgerli, bisogna fargli capire, cioè è molto importante che gli oggetti e le architetture sostenibili non solo respirino ma parlino, che riescano a comunicare con i propri consumatori e ragionarci insieme, condividendo gli obiettivi e i principi che stanno dietro le cose. Lei è molto concentrato sui temi proprio della mobilità sostenibile. Un altro dei suoi progetti è Chilometro Zero Road. Sì, è un gruppo di lavoro che abbiamo creato con una decina di aziende che appartengono tutte al mondo delle costruzioni di grandi arterie autostradali, di grandi infrastrutture, in cui in Italia siamo stati e ancora in parte siamo dei grandi protagonisti, perché abbiamo un territorio ricco di tipologie e di strade estremamente diverse e differenziate. Però anche qua il discorso di prima: se diventano verdi i mezzi di trasporto, se diventano verdi le aree di sosta, anche la strada deve diventare verde. Allora abbiamo pensato che utilizzando tutte tecnologie già attuali in commercio si possa, visto che una strada dura decine, centinaia, a volte migliaia di anni, usare la ferita che comunque la strada produce spesso nel territorio invece per compensarla con la produzione di energia, quindi mettendo, a seconda di dove la strada è collocata, se prende sole, se prende vento, se è in montagna, se è in pianura, se è sulla costa del mare, sfrutteremo il vento, se siamo nella ringhiera amalfitana o se siamo a Bolzano sfrutteremo la geotermia, in maniera di far produrre energia alla strada con degli elementi modulari che possono essere distribuiti lungo il percorso. La logica è quella di un concept, cioè di un'idea intorno al quale, ripeto, con delle aziende estremamente competenti stiamo cercando di portare avanti una visione diversa. Ecco, questo fa parte dei tempi lunghi, di quello che le dicevo prima, che a volte il progetto è fatto di cose più istantanee, più veloci, però bisogna anche seminare perché le cose possono davvero accadere, perché i cambiamenti si progettano e si predispongono con molta cura e molta pazienza. Ecco, non tutto avviene con uno schiocco di dita, perché a volte si pensa che la creatività sia che sotto la doccia uno ha le idee e la mattina dopo le realizza. No, è un'arte paziente. Anche con Nicola Di Battista, il direttore di Domus, Adriana Fracchia ha parlato di novità, tendenze e sostenibilità nel design. C'è qualcosa che tutto il mondo ci invidia e tutto il mondo cerca di copiarci, che definirei la nostra maniera di abitare. Riconoscono a noi italiani, ci riconoscono il fatto che noi sappiamo abitare, che è qualcosa chiaramente di molto più largo dell'abitare in senso tecnico, no? Della casa, dei luoghi dove noi viviamo. Saper abitare vuol dire saper stare anche insieme agli altri in maniera conviviale, saper vestire, saper mangiare, sapere che cos'è uno spazio di convivialità, quindi sapere che cos'è un soggiorno, ma anche sapere com'è bella una strada dove si può passeggiare o una piazza in cui si può sostare. Si parla sempre dei nostri beni artistici, eccetera, come se fosse oramai uno slogan, poi invece non riusciamo a usare molto tutta questa nostra bellezza, però al di fuori dell'Italia sanno che una strada italiana è qualcosa di magico, sanno che una piazza italiana è qualcosa di incredibile, un luogo dove la gente si sente bene, un luogo dove la gente riesce ad abitare. Allora io partirei proprio da questo sentimento che c'è rispetto al nostro paese, nonostante la crisi e nonostante tutto. Secondo lei emergono nuove tendenze di questo abitare italiano? È molto complicato chiudere l'idea dell'abitare su uno stile o su una moda. Questo termine di sostenibilità, che è un termine molto bello, un termine che ci interessa e ci affascina molto, ma la mia paura è che diventi uno slogan. E sotto la parola sostenibilità poi si cela di tutto, e questo è un guaio. Quindi bisogna stare molto attenti, perché poi quando una parola come questa diventa di moda, non ce n'è uno che non dica di essere sostenibile. In realtà poi ci sono molte innovazioni, forse la più significativa è che probabilmente il mondo del design si sta trasformando. Non abbiamo più il design come noi lo abbiamo considerato negli anni passati, ma c'è come una nuova tendenza che probabilmente viene dall'artigianato, dalla capacità di saper fare qualcosa, e forse lì può venire fuori un nuovo tipo di prodotto. Un'altra tendenza che trovo non male in questo momento: riprendere delle icone del design storico e riproporle oggi aggiornate con nuovi materiali, con nuove finiture, piuttosto che avere la novità per la novità, forse più consona ad altri momenti storici. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, ci risentiamo sabato prossimo alle 16:30. Non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.